1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:19 minuti in punto in questo momento. Buongiorno a tutti che siete affaccendati nelle vostre faccende. Ecco, vi piace? Debosciati miei. Oh, è la prima volta che vi appello così nel 2016, ma hanno nuovo vita vecchia. Debosciati miei, come state? Tutto bene? 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, anche WhatsApp se volete. Siamo pronti a capire che cosa ci propongono i giornali in edicola. Andiamo a sfogliarli. In questo martedì 12 gennaio, intanto i titoli e l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al petrolio. Il petrolio manda in rosso le borse, nuovo crollo a Shanghai, meno 5,33%. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda politica di Quarto, le polemiche sul 5 Stelle. Ecco chi sapeva, questa è l'apertura del Corriere della Sera, quelle telefonate su Quarto e 5 Stelle. Repubblica, bufera, Movimento 5 Stelle, il sindaco resiste a Grillo. Poi vedete come due giornali propongono in maniera diametralmente opposta il sì di ieri alla Camera alla riforma costituzionale, uno dei tanti passaggi, non è ancora finito perché servono altri passaggi e poi il referendum confermativo. L'Unità, addio prima Repubblica, passa alla Camera la legge Boschi, addio Senato, CNEL, bicameralismo e 315 indennità. Il Fatto Quotidiano invece così, schiforme, c'è chi dice no. Proprio ieri i comitati per il no, che si batterà per il no al referendum a questa riforma, si è riunito nel giorno in cui c'era l'approvazione alla Camera per lanciare la propria campagna contro questa riforma. Quindi schiforme le definisce addirittura il Fatto. La Stampa, Libia, blitz umanitario dell'Italia. Ha misurato la prima operazione militare, dunque la Stampa si butta su questioni internazionali. Invece il Messaggero ha in prima pagina un'intervista al commissario di Roma Tronca, che parla dunque dopo il Corriere della Sera anche al Messaggero. Salari a Roma, basta regali. La soluzione è vicina, gli incentivi dei dipendenti pubblici legati alla produttività dei dipendenti, dei 23.000 dipendenti del Comune di Roma. Poi Libero, il giornale, si concentra dopo le vicende di Colonia. Libero a questa foto in prima pagina di Deborah Serracchiani, vicepresidente del PD in visita in Iran con il velo. Tutto ciò ha creato polemiche, sottomessi, questo è il titolo di Libero con la foto della Serracchiani. Tra l'altro c'è questa notizia, PT Uomo fa sfilare in passerella tre aspiranti profughi e la Serracchiani in Iran si mette il velo. Mentre il giornale, le molestie sbarcano in Italia, un pakistano insidia una 14enne a Caserta, anzi a Salerno, scusate, scoppia la guerriglia. Il titolo di Avvenire invece, il grido dei migranti, appello del Papa all'Europa, non fermi l'accoglienza. Voglio partire però da questa notizia che approfondiremo dalle 8:30, tutte le polemiche sulle cosiddette trivellazioni. Sapete che in varie regioni, o meglio a largo nei mari, il governo ha concesso alcuni studi per verificare per alcune compagnie petrolifere se ci sia petrolio in mare e dunque fare trivellazioni. Questo ha generato una grande polemica sia da parte di molti comitati, cosiddetti comitati no triv, che sono sorti un po' in tutte le regioni. Ha creato una grossa polemica tra l'altro tra alcune regioni, Michele Emiliano in Puglia, Luca Zaia in Veneto, contro la decisione del governo di dare appunto la possibilità di fare esplorazioni alle compagnie petrolifere per vedere se c'è petrolio. Tra l'altro c'è anche un referendum, come racconta Jacopo Giliberto a pagina 11, il Sole 24 Ore, un referendum in vista, nel senso che la Corte di Cassazione ha disattivato, diciamo così, 5 dei 6 quesiti referendari proposti dalle regioni e dai comitati, ma uno rimane, sopravvive il quesito sulle attività petrolifere entro le 12 miglia dalla costa. E su questo è stata rinviata la decisione in primavera per capire se questo referendum è accettabile, se sarà accolto, però è chiaro che la polemica politica c'è tutta. Trivellazioni verso il referendum è il titolo del Sole 24 Ore, quindi Giliberto si concentra sulla questione referendum, mentre Repubblica dedica due pagine: scoppia la rivolta anti-trivelle di regioni e ambientalisti. Il ministro Guidi dice: sono solo ricerche, un polverone pretestuoso e strumentale, non c'è nessuna nuova perforazione, solo permessi di prospezione geofisica. E inoltre siamo ben oltre le 12 miglia. Replica, come racconta Liana Milella, pagina 16 di Repubblica, Bonelli dei Verdi, che intanto dice: guardi, essere pignoli nelle isole Tremiti la distanza non è 12 miglia ma 11.878, siamo al limite del limite del limite. Anche in Abruzzo siamo entro le 12 miglia nella località di Ombrina Mare. Bonelli dice poi: prospezione significa permessi per cercare petrolio attraverso air gun, esplosioni devastanti che alterano il biosistema marino. Ma c'è anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che dice: il governo ha mentito alle regioni. Il governo aveva promesso di ritirare tutte le autorizzazioni concesse fino a quel momento, 22 dicembre, e in nessuna occasione sono stato avvisato che sotto Natale sarebbe stata concessa la 12ª autorizzazione in Puglia, quella delle isole Tremiti. Ne parleremo dalle 8.40, anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina con Virginia Della Sala, pagina 16, Tremiti, paradiso a rischio, la fretta sospetta del Ministero. Insomma, queste trivellazioni fanno molto discutere. Evidentemente al prefetto Tronca piace ora comunicare, perché è la seconda intervista nel giro di due giorni. Dopo l'intervista al Corriere della Sera, il prefetto commissario a Roma parla anche al Messaggero. Qui la questione è diversa. C'è tutta una questione che spiega molto bene Andrea Bassi, legata ai 23.000 dipendenti della macchina comunale di Roma, che riguarda i salari, o meglio la parte accessoria del salario dei dipendenti, dopo che la Ragioneria dello Stato ha dichiarato illegittima questa parte variabile del salario, perché in pratica è stata erogata a pioggia e quindi ha detto che non venga più pagata, e anzi c'è il rischio che possa chiedere lo Stato indietro alcuni pagamenti degli anni precedenti. Ora, in attesa che si chiarisca, in Italia la chiarezza è davvero una rarità, in attesa che si chiarisca che succederà sulla parte del salario, sul salario accessorio per il futuro, per il presente e per il passato, il commissario Tronca però interviene, intervistato da Simone Cannettieri, proprio sul Messaggero a pagina 3. Ora sarà premiata solo la produttività. Non possiamo nasconderci, dice Tronca. I dipendenti capitolini hanno un ruolo importante, data la peculiarità della città in cui lavorano e il periodo giubilare. Abbiamo un'idea, la stiamo approfondendo. Serve una prospettiva che possa mettere Roma al centro d'Italia. Insomma, pensa a un modello Roma per i dipendenti pubblici? Beh, non sbilanciamoci. Adesso occorre pensare alla capitale. E la domanda è questa: ma c'era bisogno di aspettare l'arrivo del prefetto per risolvere questa vertenza sui salari? Si dia lei una risposta, risponde Tronca. Questo è un problema che mi sono trovato sul tavolo e ho capito fin dall'inizio l'importanza del tema. Sono convinto che il personale del Campidoglio meriti la parte di salario accessorio, ma non è una regalia, deve essere agganciato alla produttività, introducendo elementi non solo di equità, ma anche di modernità e di valorizzazione dell'impegno dei dipendenti. Mi verrebbe da dire auguri, auguri. Comunque, Francesco Paolo Tronca, prefetto e commissario a Roma, parla al Messaggero degli stipendi e soprattutto del salario accessorio dei dipendenti del Comune di Roma. Voglio leggere brevemente due articoli sarebbero entrambi da mani sul volante. Mi ha fatto molto arrabbiare. Ricordate tutta la polemica che c'è stata? Io ero all'estero, ma l'ho seguita più o meno, della squadra di calcio a 5 femminile di Locri, il cui presidente ha detto: siamo minacciati, minacciano la squadra, e per cui si è mobilitato tutto lo sport nazionale, diretta Rai, tutta la società civile a fianco alla società sportiva di calcio a 5 di Locri, Tavecchio, presidente della Federcalcio, che è andato personalmente a una partita di queste ragazze. E leggete il giornale, pagina 14, Nino Materi: la bufala delle minacce mafiose, quei pizzini se li sono fatti in casa. L'accusa, anche questa da provare, non si capisce mai niente, soprattutto in questi ambiti molto grigi. L'accusa da parte di due magistrati di Locri, che sono Luigi D'Alessio e Salvatore Cosentino, due giudici seri, come scrive il giornale, è questa: se minacce ci sono state alla squadra di Locri, non sono certo riconducibili alla criminalità organizzata. Potremmo trovarci dinanzi a una forma di autoproduzione di pizzini. Ma che vuol dire autoproduzione? Beh, se ci riflette un po' ci arriva da solo, risponde la fonte al giornale. In altre parole, ci sarebbe il fondato sospetto che i messaggi possano essere stati scritti e fatti recapitare al presidente da personaggi comunque interni o vicini alla società Sporting Locri. Il sospetto spunta dunque. La procura dice: l'andrangheta non c'entra niente con questa vicenda, ma non lo so, ve la riporto sul giornale a pagina 14. Ma l'articolo che mi fa più arrabbiare, l'articolo che mi fa pensare oggi, l'articolo che vince il premio Mani sul volante, è in prima pagina della Stampa, Laura Anello: sciolse nell'acido mio figlio il permesso a Brusca. Giovanni Brusca, colui che schiacciò il pulsante, il bottone che fece saltare in aria Falcone e la sua scorta a Capaci. Giovanni Brusca, colui che sciolse nell'acido Giuseppe Di Matteo, 11 anni. Giovanni Brusca, detto Scanna Cristiani, ha avuto e ottenuto 3 giorni di permesso premio ed è uscito dal carcere. Parla la mamma di Giuseppe Di Matteo, il bambino sciolto nell'acido dopo essere stato strangolato dallo stesso Brusca, che dice: è inaccettabile questo permesso premio. Appena l'ho saputo, per me lui che è il mostro e basta, ho detto: capisco, c'è una legge, va rispettata, ma mi sembra inaccettabile che non resti in carcere tutta la vita. Lui può tornare a casa dai suoi figli, io mio figlio non posso più abbracciarlo. Parla Franca Castellese, 63 anni, tanto provata da non partecipare più alle commemorazioni di Libere per il ventennale della morte del figlio. E a lei, Brusca, permesso premio. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Dalai Lama d'Occidente. Questa perentorietà di questo annuncio lo fa uno dei miei preferiti, il Dalai Lama dell'Occidente. Allora, cari ascoltatori, molti giornali aprono, Corriere Repubblica soprattutto, quindi due giornali importanti, sulla vicenda politica di Quarto, che sta mettendo in seria difficoltà il Movimento 5 Stelle. Perché la questione è: si dimette o no il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo? La sensazione da parte di tutti i quotidiani è che se non si dimette oggi verrà espulsa, verrà ritirato e precluso a lei l'utilizzo del simbolo del Movimento 5 Stelle. Il titolo più perentorio in questo senso, Luca De Carolis, a pagina 7 del Fatto Quotidiano: la sindaca fuori dal Movimento 5 Stelle, oggi arriva l'espulsione. Questo è perentorio il titolo. Fuori dal Movimento perché ha detto 1000 volte no alle dimissioni, perché gli elementi sull'inchiesta di Napoli emersi ieri hanno convinto i vertici a tagliare ogni ponte. Oggi il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, verrà espulsa dal Movimento 5 Stelle con un post sul blog di Beppe Grillo. Così scrive il Fatto, così han deciso il direttorio e la guida politica. Gianroberto Casaleggio furibondo per il comportamento dell'unico sindaco in Campania del Movimento 5 Stelle. Da oggi il conto tornerà a zero. E questa è la questione, come verrà risolta dal punto di vista brutale. Rimangono le tante polemiche. Per esempio, oggi Fiorenza Sarzanini, a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta, come racconta un po' i vari giornali, di come Rosa Capuozzo informò già Di Maio, quindi un grande esponente importante del Movimento 5 Stelle, vicepresidente alla Camera, informò Di Maio già a novembre. I vertici del Movimento 5 Stelle, scrive Sarzanini, sapevano fin da novembre scorso cosa stava accadendo a Quarto. Il sindaco Rosa Capuozzo aveva informato direttamente Luigi Di Maio. È lei stessa a raccontarlo in una telefonata intercettata dai carabinieri il 24 novembre con la consigliera Concetta Aprile, specificando di aver chiesto un incontro perché qualsiasi cosa loro ci devono commissariare. In questa telefonata tra Rosa Capuozzo e Aprile, che poi viene riprodotta all'interno dell'articolo, a un certo punto il sindaco di Quarto dice: io l'ho detto a ho già avvertito Di Maio anche per l'eventuale espulsione. Quindi in questa telefonata tra lei e Concetta Aprile, da questa telefonata si evince, almeno dalle parole del sindaco, che Di Maio fosse informato della situazione. Secondo Annalisa Cuzzocrea, pagina 3 di Repubblica, la resistenza di Rosa Capuozzo è la prova per i vertici del movimento che non si poteva fare altrimenti. Non è una resa, continuano a ripetere, ma il fatto che il sindaco di Quarto non comprenda che in gioco non c'è solo il suo destino politico, ma la credibilità dei 5 Stelle, manda su tutte le furie Gianroberto Casaleggio. E dunque anche Repubblica, come il Fatto Quotidiano, racconta di un Casaleggio molto molto arrabbiato. Un Casaleggio che ora dice che bisogna difendere il movimento. Scatta infatti anche l'offensiva nei salotti TV. Oggi in vari talk show di martedì, Ballarò, si presenteranno di fatto 5 parlamentari del Movimento 5 Stelle, da Di Maio, Di Battista, Valeria Ciarambino, Carlo Martelli, Alfonso Bonafede. Tutti, racconta il Corriere con Emanuele Buzzi, verranno preparati, una sorta di briefing mediatico su quello che devono dire e come devono difendere il movimento, che è in una situazione certamente di difficoltà. L'accusa su tutti i giornali è questa: avete perso un po' quella verginità che rivendicavate, quel senso di purezza che rivendicavate. Anche se è interessante ciò che scrive Franco Bechis su Libero a pagina 7. I puritani del PD dovrebbero cacciare 83 politici indagati. Fa un po' il punto Franco Bechis davanti agli attacchi che si leggono sui giornali, soprattutto del Partito Democratico nei confronti del Movimento 5 Stelle. Franco Bechis dice qui: beh, l'ultima disavventura giudiziaria è avvenuta 2 settimane prima che il Movimento 5 Stelle decidesse l'espulsione di Giovanni De Robbio. Era il 3 dicembre a Casale Monferrato, la Guardia di Finanza arrestava Davide Sandalo, storico esponente del PD locale. Sandalo è come tutti innocente fino a condanna definitiva, ma il suo partito e le autorità locali lo hanno difeso con le unghie e i denti anche dopo l'arresto. E il suo non era un episodio isolato in Casarenzi, era il numero 83 dell'anno. Perché alle vicende giudiziarie il PD è talmente abituato ad averci fatto il callo, scrive Libero. Nel 2015 non si è fatto mancare nulla, indagati, rinviati a giudizio, arrestati in carcere a domicilio, condannati in primo grado, condannati in appello, condannati in via definitiva per qualsiasi tipo di reato. 3 casi di accusa di voti di scambio, identici a quello registrato a Quarto. Poi corruzione, concussione, peculato, truffa, frode fiscale, minaccia, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, estorsione, pure concorso esterno e associazione mafiosa. E tra l'altro, scrive Bechis, non abbiamo messo nel conto degli 83 Francantonio Genovese, deputato PD, perché nel frattempo ha cambiato casacca ed è, si è messo a disposizione del partito più garantista che c'è, e cioè Forza Italia. E poi l'elenco di tutti, di alcuni di questi casi, degli 83 citati da Bechis, come dire, se il PD attacca il Movimento 5 Stelle dovrebbe guardare anche un po' in casa propria. In tutto questo la politica ieri ha fatto registrare un sì della Camera alla riforma costituzionale. È uno dei diversi passaggi che servono in Parlamento. Ce ne sono ancora due, credo. Poi ci sarà il referendum confermativo a ottobre, questo secondo gli intenti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, quella che ha definito la madre di tutte le battaglie, la riforma costituzionale che è stata approvata ieri alla Camera, nota come DDL Boschi, è quella che riforma il Senato, trasformando un Senato con 100 senatori non più eletti. Questa è la riforma più importante, ma andrà quindi in pensione il bicameralismo, cambierà il voto per il Quirinale, ma ci sarà anche la riforma, l'abolizione del CNEL, l'abolizione delle province, udite udite, tra le tante cose, insomma è la riforma di una parte della carta costituzionale, proprio nel giorno in cui però è arrivato questo sì alla Camera, si è organizzato anche il fronte del no, il fronte del no che vede in Zagrebelsky, Rodotà, due esponenti forse di spicco, si è riunito ieri per lanciare questa campagna per il no al referendum, chiedendo di abrogare questa legge. Nel consueto retroscena che Maria Teresa Meli racconta sul Corriere della Sera per sondare gli umori in casa Renzi, ecco che Renzi dice ai suoi: in due anni abbiamo rimesso in moto la politica, insomma stiamo ottenendo risultati straordinari. Il premier è dato per gasatissimo per come è andato ieri il voto a Montecitorio. E ora scandisce i tempi, lettura definitiva della riforma al Senato entro gennaio, lettura definitiva a Montecitorio entro aprile, 16 ottobre referendum, elezioni politiche a febbraio 2018. Quindi secondo questo retroscena di Maria Teresa Meli è tutto scandito, potete dormire sonni tranquilli, è tutto stabilito fino al febbraio 2018, fanno insomma due anni abbondanti. Dunque, Renzi è intenzionato ad andare avanti sulla strada della sfida referendaria. E come racconta Repubblica, Goffredo De Marchis, a pagina 6 e 7, anche qui un retroscena, Renzi ora vuole fare una campagna casa per casa, stile Obama. Faremo come Obama, ha detto al suo staff, andrò in giro dappertutto. L'obiettivo è spiegare. Questo l'indirizzo che verrà affidato ai comitati favorevoli alla riforma e che dovranno spiegare perché sì a questo referendum, definito la madre di tutte le battaglie, definito il referendum in base al quale si stabilirà anche il futuro politico di Renzi. Renzi l'ha detto, venisse bocciata la riforma dal referendum confermativo dagli italiani, io me ne andrei a casa. Goffredo De Marchis racconta, pagina 6 e 7, che sullo stile della Leopolda nasceranno 100, 1000, 10.000 Leopolde, non lo so, in tutta Italia per spiegare il perché sì al referendum. Questa è la situazione politica, caro Mauro Meazza. Napoli, vabbè. Napoli, Napoli. Maurino, ciao. Sì, buongiorno, parlo col Dalai Lama. Dell'Occidente, sì. Ah, dell'Occidente. Sì. No, mi hanno detto le passo il Dalai Lama prima, quindi pensavo fosse... No, no. Sì, sarebbe sua santità il modo in cui ci si rivolge. Non è che stai un po' esagerando, ti fai no, un po' prendere la mano. È, è un'ascoltatrice che mi ha definito così, il Dalai Lama. Una parente, oppure le devi dei soldi? No, neanche, pensa, le devo tanto affetto e gratitudine, questo sì. Va bene, caro Dalai Lama de no altri, ti volevo dire sulla scia dell'approvazione della riforma costituzionale, cioè del voto, se ne vogliono ancora altri, come hai ricordato tu, trovi sul Sole 24 Ore anche una serie di schede che ti dicono i contenuti della riforma, te li riassumono, e poi anche questa iniziativa centralizzante di questa stessa riforma, perché lo Stato si riprenderebbe un po' di poteri che attualmente invece sono alle regioni. Ma un'altra riforma si avvicina, è ben più prossima, ed è la riforma Madia della pubblica amministrazione. Ah, Tu me la stavi trascurando perché ti sei distratto a guardare l'altra. Interessa e solo un 3 milioni di italiani più o meno. Capirai, ne parliamo sul Sole 24 Ore perché è atteso, forse già venerdì, vedremo, qui non c'è un calendario così preciso come quello che hai citato prima, e per l'attuazione appunto di questa riforma che è stata votata nel 2015, tra l'altro c'è un po' di preoccupazione alla Corte dei Conti che perderebbe alcuni poteri di controllo sulle partecipate. Ma te lo spiegano bene Davide Colombo e Gianni Trovati, leggi sul Sole 24 Ore di oggi, pagina 6 per la precisione. Oh, poi devi leggere avidamente, avidamente secondo me, Moria Longo, perché il dottor Moria Longo oggi ti spiega nell'editoriale e poi in pagina 3 perché ci sono delle analogie tra il 2008 e questo inizio di 2016 di tensione sui mercati. Speriamo appunto che le tesi ottimiste ricordate da Moria prevalgano, ma tu leggilo comunque avidamente, perché il petrolio, ti ricordi te l'ho detto, guarda che c'è qualcuno che dice che il petrolio andrà a $20, sì. Adesso siamo sui 31, ecco, lo ripetiamo, lo ribadiamo oggi, questo è uno dei motivi di tensione sui mercati. Leggi oggi sul Sole 24 Ore, caro mio, se poi vai, fai un girettino sul nostro sito, ti ricordo che ci sono gli ebook, stai studiando gli ebook? Come no? Ma so. Allora te ne abbiamo messi diversi, te ne ricordi in questo momento solo due, i 999 combi, mi piace questo numero, 999. Sì, sì. Ha fatto apposta. È un che di mistico, un po' adatto al Dalai Lama, secondo me, 999. Sì. Allora, 999 combi della manovra spiegati uno ad uno, cioè cosa vuol dire, cosa ci sta scritto dentro, e poi la guida alla manovra, tutto quanto rintracciabile sugli ebook www.ilsole24ore.com. Oh, poi oggi è martedì, giusto? Sì, condominio. Oh, bravissimo, giovedì gnocchi, martedì condominio, proprio così. E allora parliamo del Jobs Act e dei servizi di portierato, nella fattispecie dell'utilizzo di mezzi come il tablet, il telefonino, lo smartphone da parte del portiere. Che cosa è lecito al datore, che cosa non è lecito al datore, ma trovi tutto naturalmente dentro le pagine normi tributi che leggerai, dillo bene, avidamente, no, religiosamente. Dove sei il Dalai Lama, mi sbagli questo avverbio, vabbè, mi fermo. Okay, qui dai. Traffico. Alino, la rassegna stampa logora chi non ce l'ha. Ciao caro. Beh che dobbiamo dire? Allora, cari ascoltatori, continuiamo nella nostra lettura dei giornali. C'è ancora in primo piano per molti quotidiani la vicenda di Colonia, che non è poi solo la vicenda di Colonia, è proposta da alcuni giornali come una sorta di scontro di civiltà, come una sorta di reazione che il mondo occidentale dovrebbe fare nei confronti di alcune persone che sono venute a molestare le nostre donne. Molti giornali la propongono così. Intanto quello che sta succedendo è una sorta di controreazione, nel senso che c'è stata una manifestazione, raccontano tutti i giornali, con una sorta di caccia ai profughi in Germania. Elena Tebano racconta, pagina 15, l'appello alle passeggiate per ripulire il centro di Colonia è partito giovedì e venerdì su Facebook, ma ripulire il centro significa per molti aggredire, come è successo, giovani stranieri, come nei confronti di un pakistano preso a pugni e calci da 25 persone, un 39enne siriano attaccato da 8 persone, un 19enne della Guinea colpito con una bottiglia, e insomma, e c'è il rischio che questo porti appunto a delle reazioni di questo tipo, anche perché a leggere i resoconti della polizia, io mi scuso, ma insomma sono resoconti brutali che oggi Repubblica mette in pagina, pagina 10-11, di quello che è successo a Colonia. Sentite qui cosa racconta Andrea Tarquini di quello che è il rapporto della polizia, 13 pagine, descrizioni sconvolgenti dove si raccolgono le denunce su quanto accaduto a Capodanno. Ore 0:50, piazza del Duomo. Più donne vittime, a tutte han cercato di infilare le dita nella vagina, non è riuscito grazie ai collant. A tutte sono stati palpati seni e sedere, una vittima è stata penetrata con un dito, a molte sono state rubati cellulari e carte di credito. Questo è una parte del resoconto della polizia di quello che è successo a Colonia. E il rischio, come è il titolo del Messaggero a pagina 13, in Germania ora è caccia al musulmano. A Colonia aggrediti un pakistano e un siriano, come racconta anche il Corriere. e il rischio è questo. Anche se due giornali orientati a destra, sia Libero che Il Giornale, pongono due aperture molto molto dure. Il Giornale la mette così: le violenze arrivano in Italia, e si racconta come caso di cronaca in primo piano a pagina 3 con Simone Di Meo una vicenda avvenuta a Salerno. A Salerno, come a Colonia, molestata una ragazzina. Un giovane pakistano accusato di aver aggredito una 14enne, gli abitanti esasperati hanno assaltato il centro di immigrati. Ora, per carità, cioè, poi bisogna vedere i casi per casi, ma non è che il caso di una molestia, ci sono anche moltissimi italiani che sono molestatori, ma tanti, forse è un caso diverso rispetto a quello di Colonia, dove bande hanno assaltato, probabilmente anche perché organizzate, le ragazze. Libero invece mette questo titolo sottomessi in prima pagina, e c'è la foto di Deborah Serracchiani con tanto di articolo, poi a pagina 3 di Francesco Borgonovo, di Deborah Serracchiani, vicepresidente del PD, ritratta in varie pose in Iran. In tutte queste pose indossa il velo. La Serracchiani in Iran è da velo pietoso, titola Libero. La governatrice del PD va a Teheran e si fa fotografare mentre ride col capo coperto da perfetta fedele di Allah. Questa è la polemica di Libero. È il ritratto, scrive Borgonovo, del nostro paese, perché siamo così sottomessi e contenti. Non ci limitiamo a spalancare le braccia al nostro invasore, lo eleviamo a eroe, a celebrità di questi tempi tristi. Questa è, sono le polemiche trovate sulla vicenda di Colonia, che ancora è ben alta sui giornali. Oh, tra l'altro, noi ce ne siamo occupati in passato. Vi ricordate la vicenda dell'Iraq? Abbiamo dedicato una puntata agli italiani che devono andare in Iraq. Torniamo in Iraq a difendere la diga di Mosul. Il sospetto, visto che ce lo disse Lorenzo Cremonesi in diretta, inviato dal Corriere della Sera, è che questa missione fosse stata annunciata in maniera un po' così, forse esagerata, forse imprudente. Sta di fatto che anche oggi Fausto Biloslavo sul Giornale scrive: ma il bluff del governo sulla missione italiana per la diga di Mosul. Un mese fa l'annuncio a effetto del premier Renzi sull'uso dei nostri militari a difesa dell'infrastruttura nel nord dell'Iraq. Ora tutto rischia di rivelarsi un flop. E bisognerebbe fare un po' più di questi controlli. Appunto, che ne è della missione italiana in Iraq? Attendiamo Lumi, visto che era stata annunciata. Due notizie di cronaca prima di chiudere. La guida senza patente diventa un caso, il nuovo caso, lo dico io, delle depenalizzazioni dei reati. C'è il rischio, depenalizzando i vari reati dopo la questione della coltivazione della marijuana, dopo la polemica sull'immigrazione clandestina, che venga cancellato come reato la guida senza patente. Quindi, se non viene tolto dalla depenalizzazione, guidare senza patente potrebbe diventare solo una fonte di illecito amministrativo e non più un reato penale. Mi sembra sbagliato. E poi il dirigente della RAI sul countdown errato a Capodanno anticipato di un minuto. Si sarebbe difeso così secondo Repubblica, pagina 14, si è sempre fatto così. È una prassi televisiva anticipare i tempi per fare audience. Bah. Ma eccola la carta costa, una pagina del Corriere, una, sul fatto che in ufficio non si fanno più gli scherzi. Nessuno scrive più le mail dal computer del collega per scherzo. Nessuno fa le battute. Ecco perché i giovani sono molto meno scanzonati. Perché in ufficio, un'intera pagina del Corriere se lo chiede, perché negli uffici non si fanno più gli scherzi? Ma chi se ne frega!